Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La mattina dopo aprii gli occhi e realizzai subito che dietro quella porta c'era lui, il padre di Ivana, ex ufficiale dell'esercito croato che non avevo mai visto prima, che non parlava né italiano né inglese e con la cui figlia avevo appena trascorso la notte. Sono Giovanni Dal Poz, ho 32 anni, vivo a Treviso con mia moglie Ivana e lavoro a Padova come project manager nella gestione di fondi comunitari. C'è una cosa comune a tutti quelli che hanno una fidanzata. E non è tanto imparare a vivere con una fidanzata, imparare ad esempio che non puoi lasciare la fidanzata da sola a casa con un mobile dell'IKEA, perché altrimenti te lo disfa. No, non sto parlando di questo. Sto parlando del momento che arriva sempre, prima o poi, in cui conosci i genitori di lei. Ci hanno costruito mille film su sta roba qua, no? Come si chiama quel film? Ti presento i miei. Ok. Oggi però, grazie al racconto di Giovanni, affrontiamo solo una parte di quel miei, inteso come miei genitori, cioè l'incontro con il suocero. Che vale anche se non siete ancora sposati, chiaramente, o se non eravate ancora sposati ed era solo la vostra fidanzata che vi presentava i genitori, ma in particolar modo il padre, perché la madre ho sempre la sensazione sia un osso meno duro, perché sei un maschio, perché ti vede, come dire, come la persona a cui magari la figlia ha già raccontato delle cose, magari le stai simpatico, magari no, però di solito è così. Il padre però, ho sempre avuto la sensazione quando ho conosciuto i genitori di qualche mia fidanzata, che tu andassi lì a portargli via la figlia. Quella era proprio la sensazione. Chi è questo? Ma da dove arriva? Guarda che gente che c'è in giro. La sensazione è più o meno sempre stata quella. E il lavoro più difficoltoso era portarsi a casa del papà. 349-238-6666. Il profilo Facebook è sempre quello. È Matteo Caccia. Io sono qui. Si parla dell'incontro con il vostro suocero. Vi faccio un esempio. Mario: quando ho incontrato mio suocero per la prima volta, lui era sdraiato sul lettino di uno stabilimento balneare di Rimini e dormiva. Aveva passato la notte in una balera a suonare la chitarra. Aveva un cappello texano e un tatuaggio enorme sul petto che raffigurava un dragone che sputa fuoco. La mia ragazza mi aveva preparato al fatto che fosse strano, ma non così. Ecco, non a tutti capita come Mario. Mario è stato particolarmente fortunato. Ernesto: mio suocero, quando lo conobbi, mi lanciò una tacita sfida alcolica. Eravamo a pranzo e lui, veneto fino all'orlo, beve insieme a me 4 bottiglie di rosso, una di bianco e mezza di grappa. Non ricordo come finì la serata, ma lui ora mi vuole bene. 349-238-6666. La storia di Giovanni credo non sia tanto lontana da quella di Ernesto, ma racconta di un padre addirittura straniero. Quel venerdì sera di febbraio del 2008 non ero felice. Mi trovavo ad una festa di carnevale a casa di amici poco fuori Treviso, con una ex molto intraprendente e la birra che stava per finire. La nebbia che saliva dal vicino fiume Sile si intonava perfettamente al mio stato d'animo. E per porre fine a quello strazio, decisi di andarmene. Salutai gli amici, ringhiai qualcosa alla ex ed uscì a fumare l'ultima sigaretta. E non appena misi piede fuori di casa, la vidi. Accompagnava il mio amico Ricky e la sua ragazza croata, Jelena. Anche lei era chiaramente balcanica. Lineamenti marcati, figura slanciata, frangia che incorniciava gli occhi scuri, sorriso stupendo ma soprattutto bella. Bellissima. Mi presentai. Si chiamava Ivana, con l'accento sulla I. Sì, Ivana. Avevo in mano l'ultima birra della festa. Gliela offrì, anche se non ce n'era rimasta molta. Mi sorrise, l'accettò e la bevve chiacchierando con me. Da lì in avanti non ci separammo per l'intero weekend ed io me ne innamorai perdutamente. Glielo dissi anche vestito da pagliaccio sul ponte di Rialto, quel weekend di carnevale. Alla fine però arrivò domenica e le nostre strade dovettero separarsi. Non riuscivo a pensare ad altro. Vivevo nello stato di fervore primaverile di un amore appena sbocciato e la conoscevo a stento. Resistetti una settimana e la domenica successiva decisi che non sarebbero stati 400 chilometri a portarmi via quella che avrebbe potuto essere la donna della mia vita. Presi la macchina, comprai un mazzo di fiori e partii per Zagabria. Direi che gesti così eclatanti non sono all'ordine del giorno, ma essendo io una persona molto creativa mi diletto spesso a fare dei disegni, dei loghi, delle caricature, a cucinare, scrivere dei racconti, appunto, proprio per sorprendere tutte le volte che posso la mia compagna. Quando arrivai, la chiamai e la invitai per un caffè. Lei dapprima rise divertita, poi quando realizzò che non stavo scherzando, dopo un breve attacco di panico, mi diede un appuntamento in centro. Fu una notte meravigliosa, al termine della quale era chiaro che si faceva sul serio. Cominciamo così una relazione che non si potrebbe certo definire a chilometri zero. Lei veniva tutti i weekend da me, all'epoca lei stava ancora con i genitori. O tutt'al più ci si incontrava a metà strada. Un giorno, dopo qualche mese, mi chiamò. Mi chiese se volevo essere il suo compagno ad un matrimonio a cui era stata invitata. Dal momento che il matrimonio si sarebbe tenuto a Zara, decisi di approfittare di un weekend lungo e raggiungerla a Zagabria. Già da prima, già dal giovedì sera. Fu una notte memorabile. Era una di quelle sere di fine primavera, quando l'aria comincia a farsi tiepida. Accanto a me c'era la donna di cui ero follemente innamorato e la città si presentava in tutto il suo splendore. A Zagabria, tra l'altro, c'era la Notte Bianca. I musei erano aperti e diversi spazi del centro erano stati allestiti a gallerie, nelle quali esponevano giovani artisti. Ricordo che sulla strada verso casa, tra risate e abbracci, a un certo punto Ivan esclamò: «Jebote, sono già le 4 e tra 3 ore devo alzarmi per andare a lavorare!» Io le dissi che quel dettaglio mi era sfuggito e lei mi rassicurò: «No, ma tu puoi dormire tranquillo. Quando ti alzi, poi, sai cosa fai? Bevi un caffè con mio padre mentre mi aspetti». E sorrise. Un brivido gelido mi corse lungo la schiena. La mattina dopo aprii gli occhi e realizzai subito che dietro quella porta bianca c'era lui, suo padre, ex ufficiale dell'esercito che non avevo mai visto prima, che non parlava né italiano né inglese e con la cui figlia avevo appena trascorso tutta la notte. So that man is looking through the face and in the train as comes the fog. She was humming in the subway walk. There is a phrase with them on their shoes. And they twist together on a boat. And in the river we can see across. And someone said, what a match you think to have a twist in a money made. Rimasi in silenzio ad ascoltarlo muoversi nella cucina, con il cuore che mi batteva nelle tempie e lo stomaco strettissimo. Ricordo il conflitto che mi attanagliava tra rimanere a letto facendo la figura dell'italiano dormiglione e prendere il coraggio a 4 mani e affrontarlo. Prevalse quest'ultima opzione. Appena aprì la porta, mi trovai davanti un omone di quasi 2 metri, sulla cinquantina, con i capelli brizzolati e lo sguardo gentile. Non lo capii subito, ma lui era terrorizzato almeno quanto me da quell'incontro. Dopo le presentazioni era chiaro ad entrambi che avevamo più o meno esaurito tutto quello che avremmo potuto dirci. Pronunciò delle parole che ovviamente non riuscii a capire, ma quando indicò la tazza di caffè poggiata sul tavolino, accettai di buon grado. Un caffè era necessario in quel momento. Sedevo sul divano con lo sguardo fisso su alcune riviste poggiate sul tavolino, tenendo la tazza il più possibile vicino alle labbra per mascherare il fatto che non ne usciva nulla. Dopo diversi tentativi in cui entrambi prendevamo fiato aprendo la bocca a vuoto, fu lui a buttarsi. «Caco si spavao?» mi chiese. Lo fece reclinando la testa sulle mani giunte a livello della spalla destra. «Questa l'ho capito», pensai. «Mi sta chiedendo come ho dormito». Feci uno sforzo per pescare nella memoria una parola di croato. In fin dei conti avevo trascorso un sacco di estate in Croazia. Con i neuroni ancora in corsa, aprì la bocca e pronunciai fiero: «Mali!» Sì, l'ho imparato in croato. Sì, non sono proprio uno scrittore in croato, ma diciamo che la stessa cosa che ho fatto in italiano non la saprei fare in croato. E essendo io una persona a cui piace mangiare e bere, devo dire che con mio suocero abbiamo trovato presto una lingua comune nella quale abbiamo potuto capirci. Nonostante non l'avessi declinato nel modo giusto, il concetto era chiaro, fin troppo chiaro. Lo vidi cambiare espressione e in quel momento capii che l'ultima cosa da dire a un padre con la figlia del quale hai trascorso la notte è che hai dormito poco. Dovevo assolutamente risolvere quella situazione. Nel frattempo il cuore era tornato a battermi nelle tempie e il silenzio si stava facendo sempre più pesante. Pensa, Giovanni, pensa. Dovevo spiegargli che eravamo rimasti fuori fino a tardi e quindi cominciai ad indicare l'orologio dicendo ossessivamente in italiano: «Tardi, tardi, tardi!» Niente. Mi guardava con uno sguardo interrogativo, alzando le spalle. Dovevo trovare un modo per raccontare della notte bianca, dei musei, delle mostre, sì, ma come? Cominciai a parlare in italiano, mescolato all'inglese, accompagnato il tutto da una mimica da sciarada. Nemmeno questo sortì l'effetto desiderato. Allora cominciai a guardarmi intorno per trovare degli elementi che mi potessero essere d'aiuto. E quando vidi i quadri appesi alle pareti, cominciai ad indicare con insistenza uno di loro, ripetendo «Mostra! Show! Mostra!». Lo sguardo interrogativo continuava, ma ero convinto di essere sulla strada giusta, e quindi continuai con il mio mantra «Mostra! Show! Mostra!». Quando vidi le sopracciglia innalzarsi e lo udì pronunciare un «Ah!», seguito da una frase incomprensibile, mi parve di toccare il cielo con un dito. Finalmente aveva capito. Continuando a pronunciare frasi incomprensibili, però, si alzò e mi fece strada verso l'uscita. A quel punto non ero più così certo che avesse capito. Mi accompagnò fino ad un ripostiglio a cui si accedeva dall'esterno della casa. Ci entrò, rovistò per qualche minuto e ne uscì portando in mano un decespugliatore, che mi porse con aria trionfale, battendomi sulla spalla. In quel momento i miei sospetti divennero una certezza. Non aveva capito. Confuso, mi affacciai all'ingresso di casa in cerca di qualche elemento che mi aiutasse a risolvere quel rebus. Quando lo sguardo mi cadde sul quadro che avevo ossessivamente indicato, dicendo «Mostra, show, mostra», tutto mi fu chiaro. Il dipinto ritraeva un contadino che, disteso su un prato, affilava la sua falce. Divertito e stremato, decisi che non avevo più le forze per tentare di spiegare qualcosa che non sarebbe stato compreso. Quindi mi sfilai la felpa, accesi il decespugliatori e cominciai a tagliare l'erba del prato. A distanza di 4 anni, con il croato me la cavo piuttosto bene. E nell'ottobre del 2010, alla domanda «Vuoi prendere questa donna come tua legittima sposa?», ho risposto «Da». Così, è che quello del suocero o della suocera, forse della suocera ancora di più, sì, sicuramente di più, però anche quello del suocero è un luogo comune che chiaramente è divertente frequentare, ed è per questo che arrivano un sacco di messaggi al 349-238-6666. Corrado, quando l'ho conosciuto, il padre di mia moglie mi disse: ricordati che non sarai mai veramente parte di questa famiglia. È un bel modo per accoglierti in casa. Non so quando hanno cominciato a parlarsi, che cosa si siano detti Giovanni e il papà di Ivan. Lo chiedo direttamente a lui. Pronto, Giovanni? Doberdan, buongiorno. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Doberdan è quello che vi siete detti? Sì, è la prima cosa che ho imparato, senz'altro. Buongiorno, i saluti. Subito dopo le imprecazioni, i saluti arrivano. Senti, veramente quando si impara una lingua. Senti, dicevi che a questo punto parlate il linguaggio del cibo e della grappa, mi pare di capire. No, nel frattempo ho studiato, mia moglie a questo punto è professoressa di italiano e quindi mi ha guidato in questo percorso di apprendimento della lingua croata. Cioè, lei lo è diventata da quando è venuta a vivere in Italia? No, lo era prima e questo ha favorito il nostro rapporto, diciamo. Senti, vi siete sposati qui o là? Ci siamo sposati qui con l'intenzione di replicarlo anche lì, ma dopo, sai com'è, le finanze, giovani, eravamo un momento di tranquillità, abbiamo deciso di fare qualcosa un giorno. Giovanni, ricordami quanti anni hai, perdonami. 32. 30... Ah, vabbè, ma sei un ragazzino, vi siete sposati a 28 anni. No, ormai nel 2010 siamo sposati, quindi Anni. Scusami, ho fatto male i calcoli perché dicevi a distanza di 4 anni con il croato me la cavo piuttosto bene, quindi a distanza di 4 anni... È dal giorno che ci siamo conosciuti. Ah, no? ok. Sì, 2+2 avete fatto. Esatto. Senti, dove vivete? A Treviso? Noi viviamo a Treviso, ironia della sorte in via Istria. E tu cosa fai nella vita, Giovanni? Io seguo progetti europei, in questo caso sto portando avanti un progetto riguardante il Mobility Center di Padova, che è un servizio sulla mobilità sostenibile, informazione, e sensibilizzazione dei cittadini all'uso della mobilità sostenibile, quindi carpooling, car sharing, bike sharing. Scusami, cosa si studia per diventare, fare la roba che fai tu? Ma più che altro la si inventa, nel senso che con l'esperienza i casi della vita sono arrivato a seguire questo, da prima con uno stage, dopo è stato un percorso abbastanza tortuoso che mi ha portato qui. E cosa hai studiato tu, Giovanni? Economia del turismo, e mi sono riscritto da poco all'università Local Development qui a Padova. Ma perché, perché non l'hai finita? Ah no, perché ne prendi un'altra? Sì, così. Ah, bravo. Senti, invece, torniamo un attimo a quella sera di carnevale, perché c'è un dettaglio che tu fai passare quasi sotto traccia, e invece, essendo un po' perverso, alcune cose mi rimangono in testa. Cosa vuol dire che a quella festa, appena prima di incontrare Ivana, stavi con degli amici o con una ex intraprendente? No, uscivo da una lunga storia con una ragazza, era presente anche lei quella sera, e diciamo che quella sera... c'erano altre persone alla festa, insomma, e ognuno si è sentito libero di fare quello che... Ah, ok, ok, mi piace, mi piace il modo, ognuno si è sentito libero di... Senti, e invece come si chiama il papà di Ivana? Stipe, Stiepan in realtà, ma per tutti Stipe. Ed era veramente un generale dell'esercito? Un ufficiale. Ma, sì, sì, sì, che è in pensione da tanto? Sì, lui ha lavorato in accademia, faceva istruttore per... radio comunicazioni e viene in Italia ogni tanto? Sì, ogni tanto viene a trovarci. Ma adesso quindi gli parli in croato o ha imparato qualcosa di italiano? No, io ho imparato il croato e lui comunque sta studiando inglese, ha cominciato di corsi in inglese, bravo, perché Stipe ha detto che così sì, assolutamente bravo. Dopo il decespugliatore cosa è successo? Dopo che gli hai tagliato tutta l'erba del giardino? La cosa che lui mi ripeteva in continuazione era one tank, one pausa, quindi era quando finiva la benzina, la benzina e si fermava, lui tagliava su la sua kobasica, che è questo salame che si fa in casa, che ho cominciato a fare anch'io in casa peraltro, e un bicchiere di vino, ero, si teneva su quello, dopo gesti. Vabbè, hai finito completamente ubriaco chiaramente di tagliare quel ovviamente, ovviamente, anche perché vivono in una collinetta su un parco, la casa è piccola ma il giardino è enorme, quindi ho dovuto tagliare l'erba per buona parte della mattinata, insomma. Senti Giovanni, non vedo l'ora, dopo la borsa, di descrivere la tua foto, la foto che ci hai mandato, perché è veramente straordinaria. Però preferisco lasciarmi tutto il tempo dopo. Per il momento ti ringrazio moltissimo per il racconto. Devo dirti il titolo di quella. Ah, ti prego. È Indiana Joe e Lara Croft. Va bene, dopo spieghiamo perché. Intanto, se volete portarvi avanti, andate a vederla sul sito Radio24, alla pagina di Voi Siete Qui. Giovanni, grazie mille, in bocca al lupo, saluti a Ivana. Grazie a te, buona giornata, ciao. Ettore mi scrive: mio suocero è il mio capo sul lavoro, non vi dico l'inferno. Guarda, davvero non ce lo dire. Voi siete qui. Spero che siate già andati a vedere sul sito la foto che ci ha mandato Giovanni. Spero che ce l'abbiate davanti in questo momento. Perché è vero che qualcuno ci ha mandato qualche foto divertente, diciamo così. Quella di Giovanni non è nemmeno una, sono due foto, e non sono nemmeno due foto normali, sono due fotomontaggi. Allora, il titolo di questa foto, come ci diceva lui, è Indiana Joe e Lara Croft. Sulla destra c'è il corpo di, come si chiama l'attore che faceva Indiana Jones? Vabbè, Indiana Jones, ok, immaginatevi Indiana Jones, però con la faccia di Giovanni. Sulla sinistra c'è il disegno sintetico di Lara Croft con la faccia di Ivana. Please visit the website, but please visit Italy. Countryside, seaside. Niente, è più forte di me. Quando si parla di lingua, di fraintendimenti linguistici, io non riesco a non sentire questa roba qua. Countryside, seaside. E ringrazierò per sempre Rutelli per tutto quello che ha fatto quel giorno lì, te lo dire, per creare questo video. Ogni tanto io ho questo mantra: quando sono un pochettino giù di morale vado a vedere due robe su YouTube. Uno sono i discorsi di Massimo Cacciari che mi tirano su di morale, e l'altro invece è questa roba qui di Rutelli. Countryside. But please visit our website. Perché non hanno ancora fatto un Destini Incrociati in cui Rutelli incontra la lingua inglese inglese. Oggi a Destini Incrociati Gianfranco, come si chiama Rutelli di nome? Enrico, Gianfranco, Giuseppe, come si chiama Rutelli? Non lo sa nessuno! Non lo sa nessuno! Rutelli, povero. Che fine ha fatto Rutelli? Dai Rutelli, fermi lì, lo cerco subito. Allora, Rutelli si chiama Rutelli Maldive, Rutelli Palermo, Rutelli alle Maldive. Se cerchi Rutelli Palombelli, niente, mi dico Rutelli Francesco. Please. Francesco Rutelli incontra la lingua inglese. 349-238-6666. Torniamo invece agli incontri con il proprio suocero e bando alle ciance. Ivan, ho sposato un'italiana, ma sono russo. Mio suocero mi è stato di grandissimo aiuto. Mi ha trovato un lavoro, mi è stato vicino nei momenti di difficoltà e quando ne ha avuto bisogno mi ha anche consigliato come gestire una donna italiana. Allora, Ivan, credo che le donne all'ascolto non saranno felicissime di ascoltare questo termine, questa parola gestire legata a una donna, però è sicuramente, lo ascriviamo al problema, allo stesso problema di Rutelli, countryside, seaside. Paolo, mio suocero non l'ho mai conosciuto perché era mancato qualche mese prima che io incontrassi la mia ormai ex moglie, quindi parliamo di furono in entrambi i casi. È stato terribile perché era una di quelle donne per cui l'unico riferimento maschile era il padre e tutti dovevano fare i conti con quello spettro. Credo di aver capito più o meno a cosa fai riferimento e non deve essere stato facile. Giovanni, è un sms. Mio suocero mi odia perché non gli ho chiesto la mano di sua figlia. Ma perché ancora si deve proprio chiedere al suocero? Cioè, secondo me sì. Secondo me è una di quelle robe formali tipo in ginocchio con l'anello. Cioè che se fai una roba fai anche l'altra, no? Di là faccia proprio basite, la corte, Margheritaina che spera che qualcuno chieda a suo padre la sua mano e invece niente, no, niente, non mi pare così. Ma è vero, ma perdonami, una famiglia di comunisti, chi se ne frega di chiedere la mano? Di vieni, ci sposiamo, chiuso, finita lì. Sergio, mia moglie l'ho conosciuta dopo aver conosciuto suo padre. Lui era il mio allenatore di basket e lei ogni tanto veniva a vedere le partite. Ero il suo giocatore preferito e ora sono il suo genero preferito. Vedi, a qualcuno va più facile o semplicemente più fortunato di quanto ci si immagini di solito. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Quando abbiamo letto la storia di Giovanni, a me, nella mia scarsa fantasia, pensando a problemi con la lingua parlata, oltre a lui, oltre al grande Giuseppe Francesco Rutelli, mi è venuta in mente un'altra roba. È una cosa che arriva dagli Stati Uniti e l'autore si chiama David Sedaris. It was my second month of French class and the teacher was leading us in an exercise designed to promote the use of one. Allora, David Sedaris è un divertentissimo scrittore e parlatore, direi, lettore americano di origine greca, ovviamente. Lui è dichiaratamente gay e ha uno spiccatissimo senso dell'umorismo. Fa delle trasmissioni per NPR, che è la National Public Radio americana, è una roba, diciamo, con una categoria culturale molto alta, è uno che fa riferimenti molto raffinati e molto divertenti, ma comprensibili a tutti, se l'ho capito io vuol dire che ci si può arrivare tranquillamente. David Sedaris ha scritto un libro che era dedicato a una sorta di sua lunga trasferta in Francia, dove era là perché il suo compagno viveva e quindi là in Francia lui fece dei corsi di lingua per imparare il francese. Ne è venuto fuori un libro che si chiama Me parlare bello un giorno, che era il modo in cui lui disse alla sua insegnante di francese che comunque fosse andata al loro corso, lei lo odiava, lei lo detestava, lui un giorno avrebbe parlato bene francese, e quello che gli uscì in francese fu tradotto Me parlare bello un giorno, e questo piccolo brano è tratto proprio da questo libro. Nonostante in classe ci fosse proibito parlare qualsiasi lingua all'infuori del francese, ogni tanto la nostra insegnante di lingue ci usava per esercitarsi in una delle 5 lingue da lei parlate perfettamente. Io ti odio, mi disse un pomeriggio. Il suo inglese era impeccabile. Sul serio, ti odio profondamente. Non lo so, forse sono ipersensibile, ma la presi sul piano personale. Quel pomeriggio, invece, la professoressa aveva scelto di adottare un altro approccio. Alle domande rispondevano solo i volontari, così potei rilassarmi, fiducioso del fatto che a parlare sarebbero stati sempre gli stessi 2 o 3. Quel giorno il dibattito era dominato da una bambinaia italiana, da due loquaci polacche e da una studentessa marocchina imbronciata e cicciottella che aveva imparato il francese da piccola e si era iscritta al corso per migliorare la pronuncia. Quelle cose lei le aveva fatte in terza elementare e non perdeva occasione per dimostrare a tutti la sua superiorità. La professoressa faceva una domanda? Lei rispondeva con una furia da quiz televisivo, convinta forse che, fosse stata abbastanza veloce, si sarebbe portata a casa una vacanza ai tropici o un set frigorifero congelatore. Si trovava a Parigi in soggiorno studio e alla fine della prima lezione aveva già alzato la mano tante di quelle volte da lussarsi una spalla. E così ora se ne stava comodamente seduta e le risposte si limitava a urlarle, con le braccia abbronzate e incrociate sul petto, come si conviene a un genio della grammatica. Avevamo finito di parlare della presa della Bastiglia e la professoressa era ormai passata alla Pasqua, che nei nostri libri era rappresentata dalla foto in bianco e nero di una campana di cioccolato adagiata su un letto di foglie di palma. Il mio francese non è un granché, lo so, ma con un po' di allenamento, alla fine, riuscirò a realizzare il mio obiettivo. Nel frattempo, fate una cosa. Venite a Parigi e mi vedrete passeggiare sul lungo Senna, con gli auricolari ben conficcati nei meati acustici, e intento a mormorare «È stato introdotto nient'altro nel suo ano? È stato introdotto nient'altro nel suo ano?» Gonna have your mountain gates so God can hear your cry. The offering of a fruit and bread has been sold. Compromise, na-na-na-na, say it's gonna come. It's a hand to hand, turn and run. At the side of the torch, lit him up. Now look what all that love has done. Non riesco a smettere di guardare sta foto di Giovanni in cui c'è lui e Indiana Joe e Lara Croft. Anche perché Giovanni ha, abbiamo detto, 32 anni, ma in questa foto ne dimostra almeno 65, direi. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Come sempre è successo anche sotto le vacanze di Natale. Ieri, che era un giorno festivo, per cui eravate a casa o eravate, non so, in manifestazione o in spiaggia, comunque avevate del tempo a disposizione, sono arrivati un sacco di racconti, cioè più che un sacco, sono arrivati una media di racconti più alta rispetto a quelli che arrivano, che so io, un lunedì o un martedì qualunque. Prendetevi del tempo, pigliatevi 2 ore, pensate a un episodio particolare della vostra vita, scrivetelo e mandatelo. Voi siete qui, @radio24.it. Gli ultimi messaggi che riguardano i suoceri sono quelli di Giorgio. Mio suocero è siciliano. Quando l'ho incontrato venendo da Verona, temevo avesse dei preconcetti nei miei confronti. Ed è stato esattamente così. Durante il primo pranzo insieme non ha fatto altro che ripetermi che noi polentoni, giusto perché al sud, Pietro la Corte, ci chiamate polentoni, giusto? Noi polentoni eravamo tristi e privi di emozioni, che pensavamo solo al lavoro e ai soldi. Ora ci adoriamo, ma i primi tempi furono molto complicati. Io ricordo che la prima volta che incontrai il papà di una mia fidanzata siciliana usò un termine che non sentivo da anni, che era Altitalia. Disse: voi dell'Altitalia. È una roba che credo peraltro si usi solo al sud, no? Nel senso che no, al nord non si usa Bassitalia o Altitalia. Vabbè, non intendevo dire voi del meridione, dicevo le persone che mi hanno detto vabbè, finiamola qua. Grazie a Pietro La Corte, appunto, lui del meridione. Grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Giovanni. L'ultimo messaggio di oggi: Marco, mio suocero è un attore, fa degli spettacoli orribili e noiosissimi e ogni volta che mi vede mi chiede, mi cerca di convincermi ad andare a vedere a teatro. Sto esaurendo le scuse, aiuto. La storia di oggi era la storia di Giovanni e parlava dell'incontro con i suoceri. Quella di domani è la storia di Andrea e parla di essere italiani ed essere stranieri. Ci fermammo a fare rifornimento a Holmavik, 350 abitanti. Il ragazzo che gestiva il distributore era biondo, giovane e, come tutti gli islandesi, decisamente più voluminoso di me. Indossava una maglia del Parma Calcio con la scritta Cannavaro sulla schiena.